Flora Tristan. Come scuola delle donne, amiamo particolarmente rileggere la storia, l'economia e la genetica umana dal punto di vista femminino. Abbiamo appreso la rivoluzione cinese da Pearl Buck e Bette Bao, la guerra civile americana da Margaret Mitchell, la conquista dell'Ovest e la Grande Depressione da Laura Ingalls e da sua figlia Rose, e così via. Ora vogliamo aprire una finestra femminile sulla storia dell'America Latina post-indipendentista, grazie a Flora Tristan. La storia di Flora Tristan è quella di una donna predestinata. Le sue penose e difficili vicissitudini erano necessarie per fare di lei ciò che fu, ovvero una militante per i diritti delle donne e degli oppressi, soprattutto del lavoro minorile. Flora nacque nel 1803 in Francia, nella buona borghesia, e passò i suoi primi anni in una situazione privilegiata, in una elegante casa parigina. La mamma era francese e il padre un nobile creolo peruviano, ufficiale dell'esercito spagnolo in America Latina. La famiglia della madre scappò a Bilbao, nel nord della Spagna, durante il terrore. Fu lì che la mamma di Flora conobbe suo padre. Si sposarono con matrimonio religioso, ma il matrimonio non fu registrato, e questa fu la causa delle incredibili difficoltà che Flora dovette affrontare in seguito. Durante la sua infanzia, quasi come una premonizione, frequentò alla sua casa il giovane Simón Bolívar, che allora non era ancora diventato il leader della liberazione dell'America Latina dal colonialismo. Era semplicemente un giovane venezuelano che fuggiva dalla precoce vedovanza, rifugiandosi in Europa. Quando Flora aveva 4 anni, suo padre morì. Ed ebbe inizio il disastro economico e sociale della vedova e dei figli, disastro che però fu la porta per la quale Flora entrò in pieno nella sua missione di vita. In Francia la rivoluzione sequestrò i beni della madre e poiché il matrimonio non risultava legale, anche l'eredità del padre e i suoi beni in Perù e Spagna passarono alla famiglia di lui. Dunque Flora, sua madre e il fratellino si ritrovarono senza mezzi in una situazione che abbiamo già visto tante volte, non ultima, quella di Christine de Pizan, che pure lei fece di necessità virtù e scrisse per denunciare la barbara usanza di lasciare le vedove senza mezzi. Si trasferirono a vivere in campagna per un periodo, ma alla morte del fratellino, madre e figlia tornarono a Parigi a vivere in un quartiere malfamato e povero, dove Flora, quindicenne, entrò come operaia in una tipografia. Era una bella ragazza e il proprietario si innamorò di lei, fra virgolette. Flora, obbligata dalla madre che non perdonò mai, lo sposò a 17 anni per scoprire quasi subito che era un uomo violento e profondamente maschilista, da cui ebbe 3 figli e che lasciò mentre era incinta appunto dell'ultima, la quale più avanti, negli anni, accusò il padre di aver addirittura tentato di violentarla. L'ex marito continuò a perseguitare Flora, non tollerando l'umiliazione di essere lui lasciato da una donna, fino al tragico epilogo che vedremo più avanti. Nel frattempo, la giovane donna cominciò a prendere coscienza della situazione delle classi più deboli e delle condizioni di vita nelle fabbriche, soprattutto delle donne che vivevano praticamente in stato di schiavitù sia al lavoro che a casa. Per mantenere se stessa e la prole, fece diversi mestieri, prendendo chiara coscienza della sua condizione di figlia illegittima, dunque senza casta o paria, appunto, come si definì lei stessa, e trasformando questo handicap in forza e opportunità di raccontare la verità, non dovendo rispettare le leggi non scritte del proprio rango. Già intorno ai 25 anni si accostò al socialismo umanitario, definito utopistico dalla storia patriarcale, ma che noi della scuola delle donne sentiamo di definire spirituale. Lesse Saint-Simon, Owen e Fourier, come le sue coeve George Sand e Louisa May Alcott. Il padre di Louisa, l'americano Amos Bronson Alcott, aveva fondato una comunità spirituale conosciuta come Fruitlands. Il francese François-Marie Charles Fourier aveva ispirato la fondazione di diverse comunità spirituali di stampo socialista negli Stati Uniti e l'imprenditore gallese Robert Owen era considerato con Fourier uno dei padri fondatori del socialismo cosiddetto utopistico e per noi appunto spirituale. Fourier sosteneva in particolare la liberazione della donna. Flora pubblicò il suo primo pamphlet che riguardava proprio il lasciare le donne sprovviste di mezzi e senza istruzione, alla mercé di leggi che le umiliavano e le sfruttavano. Le donne, sosteneva Flora, dovevano potersi mantenere dignitosamente e anche divorziare e vivere sole, come gli uomini. Scrisse: Rivendico i diritti delle donne perché sono convinta che tutte le sofferenze del mondo derivino dalla mancanza del rispetto e dal disprezzo dei diritti naturali e imprescindibili dell'essere femminile. A 30 anni decise di imbarcarsi da sola, cosa già incredibile per l'epoca, per andare in Perù a rivendicare la sua parte di eredità. Il viaggio durò 15 mesi, di cui 5 in nave. La descrizione del pericoloso e massacrante viaggio ce la dà lei stessa, unica donna sulla nave, in una parte del diario che pubblicò al suo ritorno, Peregrinazioni di una paria. Finalmente giunse in Perù, magra ed emaciata, nel periodo immediatamente successivo alla dichiarazione di indipendenza delle colonie dalla corona spagnola. Al sentire il nome di Tristan, al porto, fu accolta dalle autorità con gli onori dovuti alla famiglia di suo padre e per un periodo visse in casa dello zio ad Arequipa, tornando alla vita agiata di quando era giovinetta. Ma il suo destino non era quello. Chiese allo zio la sua parte di eredità, che le fu negata, compensandola tuttavia con una piccola rendita della quale si dovette accontentare finché durò. Ma durante il soggiorno in Perù, Flora realizzò il vero scopo di quel viaggio, creare in sé la coscienza del collegamento tra oppressione delle donne e oppressione delle classi povere. Cominciò a predicare che tutte le classi più deboli si dovevano unire, poiché era convinta, con spirito davvero femminino, che le donne non potessero trovare realmente benessere e libertà se intorno a loro bambini e uomini delle classi povere continuavano a essere sfruttati. Il Perù fu la scintilla che rivelò in lei le linee guida della sua futura azione genetica. A Lima, Flora ebbe una sorpresa: l'abbigliamento delle donne limegne. L'abito tradizionale, composto da saia e manto, ovvero un abito lungo, fasciante e un velo che lasciava scoperto solo un occhio, che le donne di tutte le classi sociali indossavano, permetteva loro, grazie a questo escamotage, di rendersi irriconoscibili, di muoversi liberamente e tessere relazioni anche fuori casa senza essere controllate e condizionate dai padri o dai mariti. Questo proprio grazie al fatto che l'abito annullava le caste. Al rientro in Francia, Flora, sconfitta dalla famiglia paterna riguardo l'eredità, portava comunque con sé un vero tesoro: gli appunti che si sarebbero trasformati nella sua opera più conosciuta, appunto Peregrinazioni di una paria, il diario completo del suo viaggio, inclusa la descrizione della traversata in nave. Ed è questo suo scritto che la Scuola delle Donne vuole proporre nell'edizione Ibis, edizione non integrale, che offre le pagine più interessanti del viaggio in Perù e delle scoperte di Flora. Il termine paria, che usava per definirsi, lo scelse con cognizione di causa, giacché il fatto che il matrimonio dei suoi non fosse riconosciuto la poneva nello stato di figlia illegittima, nonostante la grande ricchezza e nobiltà della famiglia del padre in Perù. A casa dello zio fu accolta e trattata con ogni riguardo, ma come ospite, non come familiare, poiché la famiglia Tristan non voleva compromettere la propria rispettabilità, tra virgolette. Questo suo sentirsi senza vincoli sociali, lei lo trasformò nella pietra portante delle sue convinzioni e della sua militanza genetica. La descrizione del Perù da lei fatta è molto dura e spietata nei confronti della nobiltà e della classe dirigente latifondista, soprattutto di Lima e Arequipa. La povertà, la corruzione e il razzismo che vide in Perù, divenuto ormai uno stato indipendente, era davvero devastante. Quando il libro fu pubblicato in Parigi, l'élite peruviana reagì con furore, sentendosi tradita da una donna che era stata ricevuta con tutti gli onori. In effetti io, Devana, ho compiuto diversi viaggi in Perù e ho trovato Arequipa uno dei luoghi più incantevoli che abbia mai visto, ma io ci sono stata negli anni 2000 e non potrò mai sapere se le magagne che Flora Tristan descrive relative a questa città e alla sua gente 2 secoli prima fossero reali o frutto di un fanatico pregiudizio. Ad ogni modo, lo zio le tolse la rendita e bruciò pubblicamente il libro nella piazza di Arequipa. Flora denunciava soprattutto la mancanza di istruzione, specialmente per le donne, istruzione che lei riteneva fondamentale per lo sviluppo sociale di un popolo. In questo allineandosi a Gabriela Mistral, entrambe sostennero l'importanza della scuola pubblica e dell'istruzione popolare. Descrisse gli abusi e le ingiustizie dal punto di vista di una donna. In una lettera al governo peruviano chiese a gran voce che fosse progressista in qualità di stato più avanzato tra quelli americani affrancatisi dal colonialismo e che chiamasse in suo aiuto le arti e il pensiero europeo per garantire che il Perù occupasse il ruolo che gli spettava tra gli stati liberi del mondo. E si firmò la vostra compatriota Flora Tristan. Il libro fu pubblicato quando Flora aveva 36 anni. Tornata in Francia, una sera l'ex marito la aspettò e le sparò al petto. La 35enne Flora non morì, ma la pallottola rimase conficcata nel suo petto fino alla fine dei suoi giorni, non molti anni dopo. Al processo, l'avvocato del marito chiese una riduzione della pena con la scusa che Flora era illegittima. Nonostante le fosse stata prescritta da quel momento una vita tranquilla e sedentaria, Flora era una lottatrice che univa in sé il sangue rivoluzionario francese e quello appassionato latino. L'anno successivo viaggiò a Londra e riscontrò la stessa situazione nelle fabbriche londinesi sorte dalla rivoluzione industriale. La sua coscienza di classe in quel momento si espanse e lei si rese conto del grande e ingiusto divario tra le classi sociali e dello stato miserabile in cui vivevano le donne, denunciato anche dalla sua coeva inglese Elizabeth Gaskell in Nord e Sud e in Ruth. Cominciò a scrivere quello che vide durante i suoi 4 viaggi a Londra, dove visitò i luoghi più poveri, incluse prigioni, manicomi, bassifondi e bordelli, travestita da uomo, e conobbe l'opera di Mary Wollstonecraft sui diritti delle donne, concordando con lei sul fatto che le donne non sono esseri deboli, passivi e subordinati, ma solo vittime dell'educazione e della prepotenza patriarcale. Il libro di Flora fu pubblicato col titolo Passeggiate londinesi. Flora, che era bella e veniva descritta come una regina da chi la conosceva, infischiandosene di sfruttare la sua avvenenza in cambio di una vita comoda, divenne una infaticabile seminatrice di consapevolezza e un'antesignana del socialismo internazionale e dell'anarchismo. Tornata in Francia, cominciò a girarla tutta, tenendo conferenze e assemblee per creare un'associazione operaia con l'obiettivo di svegliare la coscienza di classe. Continuamente bloccata e avversata dalle autorità, come le contemporanee attiviste Rosa Luxemburg ed Emmeline Pankhurst, Flora sosteneva che le donne da sole non avrebbero ottenuto nulla, che dovevano unirsi alle altre categorie sfruttate e fare della libertà il proprio obiettivo. Il suo manifesto, l'Unione Operaia, fu finanziato da altre libere pensatrici, quali la sua coeva, George Sand, pure lei seguace del socialismo utopistico, da noi ridefinito spirituale. In esso, Flora elencava azioni concrete per sanare in modo pacifico l'ingiusto divario tra le classi sociali e abolire la schiavitù della povertà. Diversamente dalla soluzione compensatoria che Elizabeth Gaskell suggeriva in Nord e Sud, Flora sosteneva viceversa che bisogna combattere per la propria libertà. Visse una vita frenetica e densa di avvenimenti, viaggi e azioni di militanza con fervore che è stato definito messianico, senza mai dichiararsi appartenente ad alcuno schieramento politico e avendo sempre come obiettivo chiave la libertà delle donne. Il diario Tour de France, nel quale raccontò le disuguaglianze sociali viste durante il suo viaggio nelle città industriali della Francia, fu pubblicato solamente negli anni 70 del Novecento dagli eredi di una sua discepola. Durante il viaggio in Francia si ammalò di tifo e poco dopo lasciò il corpo. aveva 41 anni. Sua figlia Aline fu la madre del pittore Paul Gauguin, che probabilmente, ascoltando il richiamo del sangue della nonna Flora, partì alla volta delle isole Marchesi per cercare nelle comunità native una vita più semplice e autentica. L'eredità di Flora è stata ed è ancora forte e ispirante. In diverse città del Sud America, in Francia e in Quebec, sono sorti negli anni 70 molti centri di accoglienza per le donne, intitolati a lei, Flora Tristan. La Scuola delle Donne è lieta di presentarvi Peregrinazioni di una Paria di Flora Tristan, Ibis Edizioni, traduzione e curatela di Graziella Martina. Da Devana, buon ascolto.